effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! Eccoci, bentrovati e bentrovate, o benvenuti e benvenute a tutti i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici. Questa è Radio Wombat e siete incappate nello spazio della stampa rassegnata. La stampa rassegnata, per chi non la dovesse ancora conoscere, è una delle nostre trasmissioni informative nelle quali, a partire da spunti di articoli di cronaca locale per lo più, ci occupiamo un po' di tutto quello che ci sembra interessante e rilevante accadere nella nostra area metropolitana fiorentina. Uno sguardo di particolare interesse lo abbiamo sempre rivolto e continuiamo a rivolgerlo alle due vertenze popolari, quella contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini e più in generale uno sguardo alla politica sul ciclo, cosiddetto ciclo dei rifiuti, dal monte alla valle, quindi dalla produzione al suo trattamento definitivo, e poi alla questione ben più grande, più grande forse solo apparentemente dal punto di vista dei metri quadri coinvolti dall'operazione nello specifico, ma quindi insomma scusate questa mia gaffe, l'altra vertenza, quella contro la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze e la conseguente cancellazione del Parco della Piana. Questi sono un po' i cavalli di battaglia, se così si può dire, della nostra trasmissione, ma più in generale diamo uno sguardo un po' a tutto quello che ci sembra interessante rilevare. E per l'appunto questa settimana vorrei partire dalle nostre cronache che si snodano in una settimana abbastanza densa di appuntamenti, perché si va dalla fine dalla fine del periodo pasquale, quindi dai giorni che hanno preceduto il 25 aprile, fino ad arrivare ai giorni che vedranno impegnato il movimento o alcune realtà, alcune associazioni, alcune organizzazioni, centri sociali, collettivi, sindacati di base, nella giornata del 1 maggio. Insomma, ci sono state tante cose, però nonostante questo, grazie a questo, ci dedichiamo un piccolo sguardo ad alcune vicende che riguardano le questioni, diciamo, immobiliari e della cosiddetta trasformazione e gentrificazione della città di Firenze. Lo sappiamo perché sono processi che descriviamo con una certa continuità, d'altronde non può che essere così, perché sfogliando i giornali non facciamo pari a trovare e incontrare notizie che riguardano per l'appunto la trasformazione o di ex aree dismesse o di nuove costruzioni o comunque che ruotano intorno a queste importanti tematiche che trasformano lo spazio, il nostro ambiente di vita, lo spazio urbano, a vantaggio di operatori privati, chiaramente potremmo dire per lo più, ma direi che a questo punto, da alcuni anni a questa parte, possiamo dire nella sua totalità, le trasformazioni avvengono ad opera e su proposte e su iniziativa di operatori privati. Tra questi operatori privati spiccano davvero dei grandissimi nomi, delle holding, che quindi sono esponenti di quel mondo che mescola elementi della finanza con quelli di capitale produttivo o rendita fondiaria, quindi grossi marchi, grosse aziende, società per azioni, che quindi sono i veri e propri attori protagonisti dell'economia globale, e su Firenze insomma spadroneggiano già da molti anni, perché è una città di cui conosciamo la profondità e la storicità della sua vocazione turistica e quindi anche alla esistenza, alla trasformazione, al moltiplicarsi di spazi turistico-ricettivi, ma che dagli anni 2000 in poi, o forse più correttamente potremmo dire dalla fine degli anni 90, dato anche l'esaurirsi di un tessuto produttivo e un cambio in qualche modo di modello economico che ha riguardato non solo il paese Italia e quindi non solo Firenze e la Toscana, ma diversi altri paesi dell'Unione Europea e delle cosiddette società a capitalismo avanzato, ha lasciato molti spazi tra virgolette vuoti, che sono poi sono stati riempiti con nuove destinazioni d'uso che, facendoli passare da ex produttivo, spesso e volentieri per quanto riguarda Firenze, a spazi turistico-ricettivi oppure a centri direzionali, uffici e commerciali. Questo è un po', detto in soldoni e anche in maniera eccessivamente schematica, quello che è andato a succedere storicamente a Firenze e che però insomma dagli anni 2000 in poi vede un'intensificazione di questi processi davvero davvero preoccupante, che stanno portando la città ai limiti della sopportabilità e ai limiti del collasso. Tutto questo direi che va certamente, perlomeno per quanto riguarda il nostro punto di vista, che come ho detto si è intrecciato nel tempo alla resistenza e all'avvertenza contro la costruzione del nuovo aeroporto, va intrecciato e si va intrecciando con quelle che sono le previsioni di sviluppo ricettivo per la città di Firenze, che attraverso il tanto desiderato e tanto agognato da parte dei padroni della città nuovo aeroporto andrebbe ad aumentare la capacità ricettiva fino ai 4 milioni e mezzo di passeggeri l'anno. Queste sono le prospettive con un aeroporto diciamo in funzione a pieno regime. L'attuale aeroporto di Peretola porta su Firenze circa 2 milioni e mezzo di passeggeri, che comunque sono già uno sproposito, e non lo dico per diciamo in modo ideologico come ci direbbe qualche esponente colto del Partito Democratico, ma lo diciamo proprio a partire dalle stesse cronache, dagli stessi giornali, dagli stessi episodi e dalla stessa vita collettiva e individuale che conduciamo all'interno di questo spazio urbanizzato, dove vediamo che il gran numero di persone che tutti gli anni arrivano, gran parte, per la maggior parte, turisti veri e propri, che quindi vengono a godersi, per quello che è possibile ormai godersi, questa Firenze securitarizzata, questa Firenze molto molto molto mercificata, ma insomma vengono nel centro vetrina, è un centro che sta effettivamente per certi aspetti esplodendo, per altri implodendo su se stesso, perché è sovraccarico di locali che tentano appunto di assaltare il visitatore cercando di vendere tutto il possibile, grandi marchi nel centro della città che quindi hanno in qualche modo tolto anche la scena a una vecchia borghesia locale che gestiva certi locali. Magari la borghesia locale continua a gestire delle proprietà e quindi vive di rendita, ma certamente vediamo che anche i grandi marchi e gli operatori stranieri o internazionali tendono poi ad acquisire gli immobili. Quindi insomma qui chi ci sta guadagnando è, per l'appunto, come in molte altre città del globo, una borghesia finanziaria e che vive di rendita fondiaria, che è veramente internazionale o insomma globalizzata. Quindi insomma questo è un po' quello che mi sentivo di dire come cappello introduttivo a una delle tante notizie che andrò a leggere, che però mi sembra particolarmente significativa per quello che è il rapporto tra potere pubblico, pianificazione pubblica e iniziativa privata. Un rapporto che a sentire nel racconto dei nostri amministratori, nel nostro caso si continua a parlare del Partito Democratico, ma in altre città tutto questo può essere condotto o può essere stato condotto con la stessa tranquillità da giunte e da amministrazioni di centrodestra o della Lega Nord, come succede per esempio nel Veneto, intorno alla città super turistificata di Venezia, che insomma per certi aspetti fa anche da modello, se vogliamo, in negativo o per altri aspetti in positivo di Firenze. E quindi insomma siamo all'interno di un racconto e di una strategia neoliberista che vede appunto la pianificazione pubblica, i poteri pubblici e anche le risorse pubbliche mettersi a servizio degli investimenti privati. Questa è una strategia, un dispositivo, un rapporto tra pubblico e privato, tra interesse pubblico e interesse privato, che è del tutto compatibile con giunte di centrodestra o centrosinistra e che appunto non va ricondotto semplicemente al nostro nostro Nardella, che però certamente di tutto questo è un gran campione, come lo era anche prima di lui Renzi, come lo è stato ancora prima di lui Domenici, e potremmo andare ancora indietro, insomma, a rintracciare l'origine di questo tipo di rapporto perverso e malato, che in questo caso ci regala questa perla. Siamo su dalla Repubblica del 26 di aprile, e leggiamo l'articolo. Il progetto, il rendering del nuovo hotel studentato che la società THS costruirà nell'area ex Fiat. Quindi siamo nell'area ex Fiat di Viale Belfiore, ormai è un'area che i più conoscono come il lago, o sì, il laghetto, il lago di Viale Belfiore, perché per l'appunto non dopo la dismissione, come dicevo, dell'area che era produttiva e commerciale della Fiat, che faceva un po' da, anche da svincolo in quell'area stradale di Firenze, si è passati a una nuova destinazione d'uso, che doveva essere inizialmente un albergo, poi non si è capito assolutamente più niente, è rimasto questo lago con queste fondamenta impressionanti che si è riempito d'acqua molte e molte volte, insomma, fino a che non è diventata permanente. Chissà se davvero, come le leggende metropolitane dicono, ci fossero anche dei pesci, oltre a delle alghe, a delle piante. E presi dalla disperazione di aver creato una situazione di tale degrado nel centro, di fatto nel centro fiorentino, tra l'altro accanto al passaggio della nuova linea tranviaria, quindi questo sicuramente ha destabilizzato il sistema nervoso della giunta fiorentina, più di altre situazioni ugualmente tragicomiche dal punto di vista amministrativo e urbanistico, e però quella, insomma, si vedeva molto, e quindi hanno cercato di risolverla pensando bene di in qualche modo regalare, e regalare in questo senso non mettiamoci le virgolette, perché in effetti è effettivamente un regalo, alla società Student Hotel, quella che ha già costruito, come tutti ben sapete, quello studentato ovviamente di lusso, perché di questo si sta parlando, non tanto di studentato in questo senso, è veramente un termine direi fuori luogo e fuorviante, però insomma così si chiamano e noi gli dobbiamo dare il nome che loro ci chiedono di dargli. Lì in Viale Spartaco Lavagnini, davanti ai Giardini della Fortezza, che è già entrato in funzione con tanti strombazzamenti, fino a che poi insomma si è capito quello di cui si stava parlando, che per l'appunto è un hotel di lusso come tanti altri, che siano olandesi, che mettano i preservativi nelle stanze come hanno dichiarato e come fanno, poco cambia, perché è uno spazio di fatto che è inibito e inutilizzabile per la maggior parte della popolazione, non solo fiorentina ma anche da moltissimi turisti, perché appunto, siccome ne parliamo spesso male, direi che la nostra non è una crociata contro il turismo in quanto tale. Anche noi spesso facciamo i turisti, lo facciamo anche con piacere, perché vedere il mondo e conoscerlo e girare comporta in qualche modo l'essere turisti, ma certamente c'è modo e modo di farlo, modo e modo di esserlo, e anche modo e modo di diciamo attrezzare delle città a riceverlo. Firenze, come sappiamo, si sta attrezzando a ricevere sempre più turismo di lusso, e quindi in qualche modo danneggiando e andando contro anche quello che è un turismo, se vogliamo, più popolare, se non addirittura proletario, che cerca di arrivare nella città per conoscerla, per vederla, per goderla, e però insomma senza poter spendere cifre da camere dello Student Hotel. Insomma, questa area di Viale Belfiore l'hanno data allo Student Hotel, e vediamo come. Un articoletto ce lo spiega, non direi particolarmente bene, lasciamo perdere il giudizio sul lavoro del giornalista, però insomma la vicenda si capisce. Allora, nell'ex area Fiat di Viale Belfiore, dove The Student Hotel ha intenzione di costruire un hotel studentato da, ascoltate bene, 670 camere, non ci sarà più uno spazio del 20% riservato al social housing, cioè ad appartamenti in affitto calmierato o in vendita a basso costo per agevolare le famiglie. Questa è, diciamo, essenzialmente la notizia. Questi vanno a costruire un hotel studentato, togliamo studentato e lasciamo hotel, da 670 camere, signori e signore, 670 camere, lo ripeto, perché insomma qui non siamo a New York, a Los Angeles o ad Abu Dhabi, qui siamo a Firenze, e 670 camere in un unico edificio sono sicuramente una grossissima operazione immobiliare. Insomma, Andiamo avanti, la società TSH, che ha acquistato l'area all'angolo con Viale Benedetto Marcello per 28 milioni di euro, la stessa dove negli ultimi anni si era creato il cosiddetto Lago Belfiore, ha infatti vinto un ricorso al TAR contro il Comune di Firenze. Quindi, anzitutto diciamo che il TAR è il Tribunale Amministrativo Regionale, quello che regola le controversie, diciamo, legate alla pubblica amministrazione. Quindi non sono solo i comitati che ricorrono al TAR contro le istituzioni, ma come vedete è anche a volte una grande compagnia privata, un grande operatore immobiliare come questo, come THS, che va contro il Comune di Firenze. E il TAR che dice? Se di fatto può essere considerato come un via libera finale all'operazione, dall'altro questa sentenza autorizza TSH ad andare avanti con il progetto, senza dover garantire i circa 100 appartamenti a prezzo calmierato in 6.400 metri quadrati destinati al social housing, non proprio il core business di The Student Hotel. Quindi, insomma, che è successo? C'era una nota della giunta di Palazzo Vecchio che diceva: bene, voi fate queste 670 camere dentro questo nuovo edificio che costruirete al posto del famoso Lago Belfiore, ma 100 appartamenti circa, che sicuramente sono un po' meno, per una superficie di 6.400 metri, li mettete perlomeno ad affitto calmierato. A parte che sappiamo perfettamente come questa storia del social housing non vada quasi in nessun modo a risolvere i problemi endemici e cronici della mancanza di case e di alloggi per le classi popolari della nostra area metropolitana, proprio per i prezzi che hanno e per le convenzioni che si stabiliscono. Ma insomma, qualche modo dici: facevano un albergo, 100 appartamenti l'hanno date alla gente. Però certamente lo Student Hotel cosa ha pensato? Ti immagini se noi facciamo 670 camere di lusso e nello stesso edificio dobbiamo avere 100 appartamenti di poveracci che quindi convivono con i nostri clienti di lusso? Diventa una situazione intollerabile dal punto di vista del lusso, che punta all'esclusività dell'uso dello spazio. E quindi questa vicinanza veramente intollerabile, come ho detto, dal loro punto di vista, gli ha detto a cosa hanno detto: bene, ora noi andiamo al TAR e ricorriamo contro il Comune di Firenze. Sono ricorsi e il TAR gli ha dato pure ragione, quindi loro non sono più tenuti a destinare questi 100 alloggi a social housing e li possono rincorporare come destinazione turistico-ricettiva, quindi faranno del tutto camere per questo hotel di lusso, e così si è chiusa e risolta la situazione. Continuo a leggere l'articolo. La società infatti era ricorsa al TAR per chiedere l'annullamento di una nota della direzione urbanistica del 28 giugno 2018 con cui Palazzo Vecchio aveva confermato una vecchia norma che prevedeva l'obbligo di una quota rilevante di housing sociale nei nuovi piani di recupero. 20%, l'abbiamo letto all'inizio dell'articolo, la quota rilevante è il 20%. Il TAR ora si è espresso e ha stabilito che nell'area di Viale Belfiore può non esserci, interessante questa costruzione linguistica, può non esserci l'housing sociale, perché questo è stato già garantito al Comune di Firenze con una convenzione del 2008 con cui erano stati messi a disposizione di Palazzo Vecchio per 10 anni una serie di appartamenti in via Toscanini e via Respighi, quindi al di fuori dell'area ex Fiat. Attenzione, perché qui la questione si complica, non è neanche molto chiara, ho cercato di capirne qualche cosa, ho cercato di capire qualche cosa chiedendo anche a un compagno che ringraziamo sempre dai nostri microfoni, che è Antonio Fiorentino, un urbanista prima di Per un'altra città, oggi del gruppo urbanistico sempre di Per un'altra città, di Potere al Popolo, che segue da anni con grande competenza e passione le vicende legate all'esproprio, alla vendita dei beni pubblici e alla gentrificazione di quest'area metropolitana. E abbiamo più o meno ricostruito che, siccome l'area di Viale Belfiore era prima appartenuta a Baldassini e Tognozzi, che poi sono falliti e sono coloro che hanno lasciato il lago di Viale Belfiore, praticamente erano stati Baldassini e Tognozzi che avevano nel 2008 dato al comune di Firenze degli appartamenti in via Toscanini e via Respighi, in quell'operazione della ex Sime che si trova, per chi si riesce a collocare geograficamente, dietro a via Piazza delle Medaglie d'Oro, in sostanza, zona Novoli. Quindi Student Hotel non ci mette proprio assolutamente niente, perché diciamo nella sentenza del TAR hanno fatto valere degli appartamenti che Baldassini e Tognozzi avevano dato al Comune di Firenze. Quindi il Comune di Firenze non prende nulla dalla nuova operazione di Viale Belfiore, si accontenti Firenze, diciamo Firenze intesa come giunta, intesa in questo senso come giunta che dovrebbe tutelare gli interessi, diciamo il bene comune inteso in questo senso come interessi delle classi popolari che aspirano quantomeno a queste briciole del social housing, ma non li prendono perché li hanno già presi nel 2008. Ora, attenzione, perché quindi gli appartamenti erano stati dati da Baldassini e Tognozzi al comune nel 2008, però siccome la convenzione era di 10 anni, pensate voi quest'altra truffa colossale, per cui si fa un'operazione e si danno degli appartamenti a prezzo calmierato per soli 10 anni, perché poi ritornano al proprietario che li rimette a prezzo di mercato, quindi siamo già nel 2018 e di fatto questi appartamenti sono già scaduti, quindi verranno rincorporati anche gli appartamenti di via Toscanini e via Respighi, che cita l'articolo, riverranno incorporati a prezzi di mercato e probabilmente le famiglie che in via Toscanini e via Respighi, poi famiglie o meno, perché poi sempre sta dicitura delle famiglie, se no diventa, sembra di essere al convegno delle famiglie a Verona, e siccome qui non siamo a Radio Pillon ma su Radio Wombat, insomma non ci facciamo trascinare troppo dalla loro terminologia, le persone che hanno vissuto o vivono in questi 10 anni tra via Toscanini e via Respighi a prezzi di social housing ora si vedranno sfrattate, perché i prezzi torneranno a essere quelli del mercato. Questa è la situazione, quindi insomma credo che l'articolo e il commento abbia descritto abbondantemente il rapporto truffaldino che c'è tra amministrazione pubblica e operatori privati, il totale incasso e il totale disuguaglianza a vantaggio degli operatori privati di operazioni come queste e l'ingenuità, la vogliamo chiamare ingenuità o la vogliamo chiamare idiozia, stupidità o servilismo, quello delle amministrazioni che continuano a percorrere questa strada senza uscita, che porta semplicemente vantaggi a coloro che i soldi già ce li hanno e che vengono a investirli a Firenze. MARSEI 2L est à la rue. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues incomptées, génération du crabule. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refait à notre insu. Petit déliment, je longue peine au gommette ou à l'huile. Pour pas grand chose, dorénavant, on te fracture. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu où est passé la ville du bled. Paraît que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. Les cartes se creusent, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de MARSEI 2L est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien hip. Chaque des cultures 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ce qui reste, esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système, qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir. Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. Nos hommes n'étaient pas que livrés. La camaraderie, la vraie, la joie, y avait pas de carabine. Car la génie cesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le chine. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vide. vivre, refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavanent les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Eccoci, 1359, questo è sempre Radio Wombat e per chi si fosse collegato adesso è sempre lo spazio della stampa rassegnata e vogliamo dare la voce, lo spazio dai nostri microfoni ai riders fiorentini, tutti coloro, uomini, donne, giovani e meno giovani che percorrono le strade della nostra città trasportando prodotti per lo più alimentari ma ormai non solo, per conto di queste nuove, diciamo così, compagnie che hanno nuovi nomi, nuovi loghi, nuovo brand, ma vecchie e vecchissime pratiche di sfruttamento e precarizzazione del lavoro. E i rider fiorentini, per l'appunto, come in altre città italiane, stanno tentando da tempo dei percorsi di sindacalizzazione e di riconoscimento di diritti e condizioni lavorative degne in una, appunto, in una gig economy, così viene definita dalla moderna sociologia, che vede sempre di più moltiplicarsi le occasioni di lavoro gratuito o quasi gratuito e sempre meno venir meno, insomma, i diritti e le retribuzioni orarie. Bene, insomma, i riders fiorentini si uniranno e propongono un appuntamento curioso e interessante, diciamo, di critical mass, in qualche modo un corteo in sella e sui pedali, come è la loro caratteristica, come è il loro tratto distintivo, e lo propongono non casualmente nel giorno del 1° di maggio, che da lunga data, insomma, traccia nella storia del movimento operaio il giorno della festa del lavoro e soprattutto dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma sentiamo dalla viva voce di uno o di una di loro quello che ci propone per il 1° di maggio e un po' un aggiornamento su quello che sta succedendo in questo variegato e dinamico mercato della gig economy e dei vettori da Deliveroo a Foodora, anche, diciamo, rispetto a quello che è successo o che sta succedendo per esempio con questo processo di concentrazione di capitale, così per definirlo in modo classico e marxiano, che ha visto per esempio Glovo arrivare e prendersi e acquisire Foodora. Insomma, a loro la parola per un punto, così, per un punto della situazione su quello che è lo stato delle loro lotte e quella che è la proposta e l'appuntamento del 1° di maggio. Sì, ringraziamo Radio Wombat per lo spazio che ci ha concesso, soprattutto per un evento che è stato organizzato e che per noi è emblematico nel riconoscimento minimo dei diritti. Il 1° maggio è una data importante a livello storico per quanto riguardano appunto il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Prima di addentrarmi all'interno delle cause, delle rivendicazioni che stiamo portando avanti e quindi anche relativa alla manifestazione che noi faremo il 1° maggio, volevo descrivere brevemente cos'è il RUF. Per fare ciò passo la parola a un altro rider, Riccardo, che darà una breve delucidazione sul RUF. Mi presento, sono Riccardo del RUF, ovvero un collettivo autonomo autogestito che appunto spera di poter rappresentare una categoria di lavoratori che sono sostanzialmente i rider. RUF è acronimo di rider, cioè ciclofattorini, union perché è sostanzialmente union in inglese vuol dire sindacato, anche se noi ci sentiamo più un collettivo, perché è appunto un'aggregazione di persone che vogliono sostanzialmente non delegare i loro diritti e non vogliono delegare appunto questa cosa a persone che magari cercano solo un intermediario mediatico, ma di rappresentarci da soli. Il RUF nasce circa a luglio del 2018 e da alcuni ragazzi che si sono uniti appunto per questa lotta, se così possiamo chiamarla, sui diritti di questo lavoro ovvero il rider. Siamo un collettivo che non ci sentiamo singoli, ma siamo comunque uniti a tutti i collettivi italiani riguardanti questo lavoro. Abbiamo varie attività, tra cui la ciclofficina, che è molto importante per noi, ed è sostanzialmente una ciclofficina che si trova in polveriera in via Santa Reparata e vuole offrire un servizio gratuito, ovviamente, un servizio gratuito per tutti quei ragazzi che hanno bisogno di un aiuto con i loro mezzi e cose varie. E ringraziamo anche ovviamente di vari attrezzi che ci sono stati dati dal CPA, ovvero la Brugola Rossa, dalla ciclofficina del CPA e dalla ciclofficina di Via Giotto. Verso metà maggio ci sarà un'asta di autofinanziamento appunto per questa ciclofficina e per il RUF. Abbiamo scelto la data del 1º maggio perché anche nell'immaginario collettivo è molto identificativa nella lotta per i diritti dei lavoratori. Ricordiamo che le origini del 1º maggio derivano dal riconoscimento attraverso il decreto legge del 23 della giornata lavorativa massima di 8 ore. Mentre noi ancora continuiamo a vivere sulla nostra pelle una sorta di caporalato digitale che ci consente di autosfruttarci e di lavorare fino a 15 ore al giorno, mettendo a repentaglio anche la salute dei lavoratori. Ciò che spesso viene ricordato della data del 1º maggio è la manifestazione organizzata a Chicago. Come rivolta dell'iMarket. E quello che non viene ricordato successivamente è che questi lavoratori sono stati caricati alla polizia e addirittura due di loro sono stati uccisi, ne sono conseguiti attentati dinamitardi nei confronti dei poliziotti e successivamente delle esecuzioni a morte, nella quale degli anarchici a Chicago pronunciarono le ultime parole. Io volevo ricordare le parole di Parsons, la cui agonia fu terribile, in quanto riuscì appena a parlare, perché il boia strinse immediatamente il laccio e fece cadere la trappola. Le sue ultime parole furono queste. Lui disse: "Lasciate che senta la voce del popolo". Ecco, noi crediamo che il popolo, anche i clienti stessi possono capire realmente che un lavoro che permette di lavorare 15 ore al giorno senza un'assicurazione, senza contributi previdenziali, senza ferie, senza malattia, senza maternità, ma semplicemente sfruttando questa macchina capitalistica in cui o lavori attraverso un metodo ormai che è stato abolito da 30 anni, che è il metodo del cottimo, quindi una consegna viene pagata un prezzo, spesso un prezzo farlocco, si arriva addirittura a guadagnare 1,90 euro lordi per consegna, che somiglia a qualcosa come 1,52 euro. Noi chiediamo inoltre di essere riconosciuti come lavoratori e non come dei ragazzi o dei vecchietti che vanno in bici e che fanno la passeggiata post cena. Noi siamo consapevoli di lavorare per delle aziende che ci continuano a sfruttare, che tendono ad abbassare sempre di più le paghe, a tutelare una fascia di lavoratori che già nella realtà sociale non ha diritti, e quindi mi riferisco agli immigrati senza permesso di soggiorno che vengono assunti e pagati 2 lire, mi riferisco ai minorenni. Noi vogliamo denunciare tutto questo, Abbiamo creduto, abbiamo sperato, ci siamo illusi e ci siamo disillusi nella storia di questo excursus politico che ormai è nato 2 anni fa, è nato dalle battaglie di Torino, nella quale dei ciclofattorini sono rimasti coinvolti in incidenti e morti. È nato dai morti che quotidianamente continuiamo a piangere, i nostri compagni che nell'asfalto lasciano la propria pelle. Noi come Riders Union Firenze abbiamo presidiato un tavolo di governo, pur essendo consapevoli che nulla sarebbe cambiato. Ad oggi Di Maio, dopo l'inchiesta sulla Casaleggio Associati e sul relativo appalto di Deliveroo dello studio sull'e-commerce, in un conflitto di interessi pazzesco che poi rappresenta quello che quotidianamente viviamo e che ci celano, ci nascondono, noi oggi non crediamo più alle parole che ci vengono pronunciate, soprattutto in questo 28 aprile, nella quale Di Maio ancora una volta propina di essere inseriti all'interno di un decreto legge. Prima doveva essere quota 100 e il decreto di dignità, oggi è il salario minimo, ma al di là delle forze politiche noi crediamo che la regolamentazione, la settorializzazione, avere un contratto nazionale possa essere l'unica soluzione a fermare i morti e gli incidenti che quotidianamente capitano per inseguire un guadagno maggiore. Si parla solo di pochi spicci. A livello regionale anche il PD, nella persona del Presidente della Regione Rossi, aveva fatto delle promesse riguardo la situazione locale, riguardo la possibilità di avere un fondo per i rider, riguardo la possibilità di avere delle strade migliori, riguardo la possibilità di avere un corso sull'HCCP, un corso sulla sicurezza. Ovviamente le parole dei politici sappiamo bene che finiscono al vento. Noi crediamo di poterci autorappresentare, crediamo di non aver bisogno più di delegare, anche perché chi fino adesso ha avuto un ruolo di mediazione ha fallito, non solo ha fallito, ma pretende di riavere quel ruolo di mediazione. Mi riferisco ai sindacati confederali, senza realmente comprendere appieno quello che è il lavoro dei ciclofattorini. Anche per questo la nostra richiesta è quella che al corteo del primo maggio, allo sciopero del primo maggio, siano vicini tutti quelli che quotidianamente stanno sulla bici o con la pioggia o con il sole cocente per guadagnare quel poco che ci basta per vivere. Estendiamo l'invito anche alle altre realtà autonome autogestite, e estendiamo l'invito a tutte le persone che credono che i rider siano una classe lavorativa che va tutelata, va salvaguardata, immettendo semplicemente quelle poche tutele che sono le tutele minime sindacali. Ringrazio ancora una volta Radio Wombat. E allora siamo ancora noi a riprendere il controllo del microfono, siamo noi a ringraziare dai nostri microfoni il RUF di Firenze, quindi i Riders, i ciclofattorini che ci hanno per l'appunto spiegato il loro appuntamento, e lo ricordiamo un'altra volta, il 1° maggio alle ore 10 in Piazza Beccaria. Per chi volesse rispondere per l'appunto al appello fatto dai Rider Fiorentini, portatevi anche la bicicletta e siate pronti a fare qualche pedalata. Ed ora, nella nostra settimanale lotta contro il tempo, prima di andare a chiudere, il 25 aprile, giornata importante un po' per tutti, importante per chi tenta strumentalizzazioni politiche, per chi attraverso il disertare la piazza, partecipare o non partecipare, o tangere o schivare la giornata, afferma altre pratiche e altri progetti politici, importante anche per coloro che in questa giornata ricordano la necessità della lotta contro, certamente contro il razzismo di Stato targato Lega e Forza Italia e centrodestra, ma anche quello che ben conosciamo soprattutto nei territori dove il Partito Democratico resta il governo e magari ci resta con continuità storica dal 45 ad oggi, nei suoi certamente tanti e tanti e tanti passaggi e in un processo di declino, svuotamento culturale e convergenza verso il centro e il neoliberismo, ma insomma, quindi la parola ci teniamo a darla a coloro che hanno proposto per un 25 aprile di lotta e di opposizione sociale. Prima di farlo e di dare la parola ai compagni e alle compagne che appunto hanno dato vita a questa giornata in questi termini e fargli spiegare dalla loro viva voce le ragioni che hanno mosso questa scelta, alcuni titoli tanto per dare un'idea di quello che è stato il 25 aprile sui giornali. Dalla Nazione del 25 aprile per l'appunto, La Liberazione, alza bandiera in Santa Croce, corteo a Palazzo Vecchio. Il murale dedicato alla Resistenza e al partigiano Silvano Sarti, inaugurato ieri in Via del Pollaiolo, con foto di Nardella e addirittura le bandiere e le coccarde rosse. La festa che divide, Bocci diserta e per Rossi è un sovversivo. Il candidato del centrodestra accusa, non c'è libertà, pressioni sui miei candidati. Il corteo in Via dei Cerretani, fotografato con il gonfalone di Firenze e le chiarine. Poi andiamo avanti nell'altra pagina. Renzi, il 25 aprile si rispetta. L'ex premier si scaglia contro la destra che non scende in piazza. E poi le classiche foto con le prese di posizione. Marco Stella di Forza Italia. Festeggerò in Piazza dell'Unità, poi al memoriale a Falciani. Jacopo Alberti della Lega. Porterò i fiori a Fiesole ai carabinieri uccisi il 12 agosto 45. Simona Bonafè del PD. In piazza anche per ricordare l'impegno del partigiano Sarti. E si va avanti così. L'altro occhiello, non discuto l'eroismo della Resistenza, ma il rito ideologico. Bocci, giornata con gli ultimi. Ecco, questo è un po' il clima che si respirava e questi sono i commenti. La libertà è un dono, chi non festeggia non ama la nostra città. Nardella, un onore essere qui. Ripeto, questi sono un po' i toni con cui si è parlato di questa giornata, ovviamente all'interno della cornice dello scontro elettorale che mai come in questo momento vede le strumentalizzazioni intorno e a fare da sfondo a questa giornata, che invece giornata che ricorda chi ha lottato contro il nazifascismo non a chiacchiere, o perlomeno non solo con le chiacchiere, e che alcuni compagni e alcune compagne insieme al lavoro che svolgono quotidianamente hanno per l'appunto, come dicevo in apertura di questa sezione della nostra trasmissione, deciso di costruire come corteo dell'opposizione sociale. A loro la parola per un racconto di questa giornata dal loro punto di vista, perché non siano gli unici esclusi dalle cronache, visto che i giornali hanno per lo più ignorato tutto quello che non è stato bagarre e immediata polemica politica. Ecco, il 25 aprile deve essere una giornata di festa e deve essere una giornata di tutti. Queste sono un po' le parole, il ritornello che abbiamo ascoltato e riascoltato, letto e riletto dalle colonne dei giornali, provenienti soprattutto dalle bocche e dalle penne degli esponenti della sinistra istituzionale, in particolare il Partito Democratico, in questi ultimi giorni. Questa è stata un po' la risposta al fatto rappresentato dalla sottrazione, la decisione di sottrarsi e disertare le celebrazioni della giornata della liberazione istituzionali da parte della Lega a livello nazionale con Salvini, a livello anche qui locale con il candidato a sindaco Bocci. Ecco, la manifestazione dell'opposizione sociale nasce da un'idea diametralmente differente. Prima di tutto dalla convinzione che il 25 aprile non è e non possa essere una giornata di festa. Non possa esserlo per diversi motivi. La prima è che assistiamo quotidianamente a un ritorno di attualità in negativo di tutta una serie di politiche che ricordano in qualche modo le pulsioni che alimentarono quel ventennio, pensiamo alle politiche che compongono oggi un vero e proprio razzismo di Stato, dal decreto Salvini, ma andando più indietro anche guardando al decreto Minniti, a tutta la gestione dei flussi migratori che oggi fa contare il macabro conto di 8 morti al giorno nel Mediterraneo, che oggi ci restituisce immagini terrificanti di campi di concentramento in Libia in cui i migranti vengono rinchiusi e torturati, ma anche attualità delle istanze di liberazione che crediamo continuano a essere vive, presenti all'interno di questa società, all'interno di un pezzo, del pezzo maggioritario di questa società, ovvero della sua parte subalterna, della sua parte sfruttata, della sua parte che a 360 gradi quotidianamente subisce un regime di mercato e di sfruttamento sulle proprie vite. Ecco, quindi non poteva essere una giornata di festa, ma doveva essere una giornata di lotta, e questa lotta andava sostanziata non solo in degli slogan, ma anche in una manifestazione che si desse effettivamente degli obiettivi di conflitto, degli obiettivi di contestazione e di contrapposizione con proprio quello che veniva espresso invece a livello istituzionale. Dall'altra parte non andava rotta l'idea, diciamo, di una giornata di tutti che spesso e volentieri, come abbiamo assistito in tutti questi anni, vuol dire di tutti meno che tutti quei soggetti di cui parlavo prima, vuol dire di tutti i rappresentanti politici istituzionali, di tutte le istituzioni, dei questori, dei prefetti, ma non di chi invece quotidianamente la battaglia contro il fascismo, contro il razzismo, contro il sessismo, contro le ingiustizie e lo sfruttamento che segnano questa epoca possa parlare. Quindi ecco, la giornata un po' la classica immagine che ci hanno restituito negli ultimi anni le celebrazioni ufficiali, se pensiamo a quelle che si sono svolte anche quest'anno in piazza della Signoria, è proprio un'immagine della politica e delle istituzioni che parlano di fatto a se stesse, di qualche comizio elettorale come quello che c'è stato anche quest'anno con un Nardella che ha utilizzato la giornata per costruire una passerella e un palco della propria campagna elettorale, e fuori dalla scena invece tutti gli altri. Ecco, tutti gli altri avevano il bisogno e hanno costruito una manifestazione, sono state centinaia le persone che hanno risposto all'appello, e chi erano? Erano i giovani, i giovanissimi, gli studenti che tramite i collettivi nelle scuole costruiscono un livello di auto-organizzazione, di conflitto, costruiscono attraverso la lotta una strada di riscatto a partire dai problemi più piccoli, più quotidiani, come possa essere la necessità di non studiare all'interno di scuole insicure che crollano, ma anche di affrontare una battaglia necessaria per costruire un futuro, per costruirsi un riscatto, un futuro che è stato per l'appunto distrutto in termini di possibilità invece da anni e anni di politiche che hanno scaricato sui giovani come sulle donne i costi di questa crisi diciamo sistemica che va avanti ormai da 10 anni. Quindi sono i giovani, e ne abbiamo visti tantissimi, sfidare alla testa della manifestazione il divieto e gli sbarramenti della polizia in via del proconsolo. Sono state le donne, anche lì spesso giovanissime, che hanno riempito le piazze già negli ultimi anni, nelle manifestazioni del grande movimento globale Nulla di Meno, e sono i migranti che spesso vengono parlati, che diventano molto spesso sia oggetto delle retoriche razziste, ma anche oggetto delle retoriche anti-razziste. Ecco, invece i migranti che oggetti non vogliono essere più, i migranti che ai cancelli delle fabbriche, dei magazzini, insieme al sindacato Sicoba, stanno costruendo un percorso di riscatto, di conflitto, di conquiste, di ribaltamento di una condizione di doppia sfruttamento, di doppia subalternità che oggi la legislazione, ma in generale questo sistema sociale, vuole far pesare sulle proprie teste. Ecco, abbiamo visto tutti gli anni in questa piazza, in quelle piazze, vedere il sindaco Nardella fare appello ai giovani affinché si interessassero, riproducendo sempre un po' un immaginario di giovani come giovani menefreghisti, che fa un po', diciamo, il pari con l'altra grande retorica dei giovani che stanno seduti sul divano e che vogliono solo aspettare il reddito di cittadinanza. Abbiamo visto Nardella senza alcun titolo e credito, dal momento in cui appartiene a un partito che, come dicevo, ha partorito il decreto Minniti, ha partorito i lager in Libia, ha partorito la guerra ai soccorsi in mare, utilizzare quei palchi per provare a rifarsi una virginità in senso antirazzista. Ci sembrava necessario e d'obbligo quest'anno invece dire che i giovani, le donne, i migranti sfidassero i divieti, per dire che su quella piazza avevano diritto di parlare loro. Quindi restituire in qualche modo anche il 25 aprile ha un aspetto, ha un valore partigiano, ha un spirito partigiano, che è oggi quello che vive di sicuro nelle lotte e certamente non vive all'interno dei palazzi diciamo del governo, come delle prefetture o delle questure. Questo è il senso, è stato il senso vivo della manifestazione, che voleva aggiungere, diciamo, a una giornata in cui ci sono tante iniziative di celebrazione e di festa, anche un momento che invece fosse direttamente di lotta e che restituisse questa giornata a una sua attualità, a una sua forza. Anche quest'anno abbiamo assistito al vergognoso tentativo del sindaco di questa città, Dario Nardella, di intestarsi i valori della resistenza e l'antifascismo in vista della giornata del 25 aprile. Noi abbiamo ritenuto fin da subito ipocrita questo atteggiamento, infatti non ci dimentichiamo che Nardella fa parte di un partito, il PD, che con l'ex ministro degli interni Marco Minniti è stato di fatto l'apripista per la costruzione di nuovi lager in Libia. Nardella inoltre è favorevole alla costruzione di un CPR anche qua in Toscana. Non ci dimentichiamo le sue vergognose dichiarazioni in seguito allo stupro delle due studentesse americane da parte di due carabinieri, e non ci dimentichiamo nemmeno che Nardella strinse la mano al ministro degli interni Salvini, un razzista, un assassino, un sessista, quando appunto quest'ultimo venne in prefettura, stringendo così di fatto di comune accordo un patto per aumentare gli sgomberi degli spazi occupati in questa città. Nardella inoltre ha più volte ripetuto di voler dedicare la giornata del 25 aprile ai giovani, ci ha tenuto più volte a sottolineare l'importanza che appunto le nuove generazioni raccolgano il testimone della resistenza, sottolineando anche e dipingendo insomma questi giovani come apatici, come disinteressati, come menefreghisti. Beh, noi sappiamo benissimo che non è così, ci sono delle nuove generazioni che vorrebbero prendere parola su questo tema, ma il sindaco Nardella già l'anno scorso aveva di fatto privatizzato la piazza delle celebrazioni ufficiali, impedendo l'ingresso a questi giovani di cui tanto si riempie la bocca, e addirittura facendo eseguire quattro arresti completamente immotivati. Anche quest'anno Nardella aveva provato a evitare contestazioni impedendo al corteo che si voleva muovere per le vie della città di arrivare in Piazza della Signoria, dove appunto lui tiene il suo palco. Appunto questo corteo era stato in un primo momento, era stato vietato dalla questura, ma circa 200 giovani antifascisti e antifasciste si sono ugualmente mosse per le vie di Firenze lo scorso 25 aprile per appunto riprenderci questa parola che troppo a lungo ci è stata negata su questi temi. In piazza lo scorso 25 aprile c'erano tante donne, sono quelle, tante studentesse in particolare, sono quelle che ogni giorno lottano contro il sessismo nelle scuole di Firenze, c'erano i migranti, c'erano i lavoratori che quotidianamente lottano contro lo sfruttamento nelle fabbriche, contro condizioni di vera e propria schiavitù. C'erano tutti quei giovani che si erano opposti al razzismo di Salvini e non gli avevano certo stretto la mano come aveva fatto invece Nardella. A tutte queste persone è stato di fatto impedito di parlare, infatti la polizia ha negato loro l'accesso della piazza e, o almeno ci ha provato con tutte le sue forze, e ancora una volta abbiamo visto come ai politici di qualsiasi forma, colore e schieramento non interessi assolutamente cosa i giovani hanno realmente da dire, basta potersi riempire la bocca, diciamo, con su di loro. Evidentemente però in questa città chi la pensa diversamente dal sindaco Nardella non ha diritto di esprimersi, e quindi per il secondo anno consecutivo ci è stato vietato l'accesso alle celebrazioni ufficiali. In via del Proconsolo, appunto poco dietro Piazza della Signoria, siamo stati fermati da un plotone di polizia che appunto ha tentato di zittire la voce di tutti coloro che in qualche modo appunto dissentono da Nardella. È un po' paradossale, insomma, che appunto nella giornata della liberazione, in cui si celebra la ritrovata libertà dell'Italia dopo il periodo del ventennio fascista, appunto che in questo giorno a qualcuno non sia garantito il diritto di esprimersi. E ancora una volta abbiamo visto come Nardella non sia altro che un ipocrita. Infatti soltanto il giorno prima, il 24 aprile, rispondendo a un ragazzo che gli aveva posto questa stessa questione mentre stava inaugurando un murale dedicato al partigiano Sarti, Nardella aveva detto che in questa giornata il diritto di parola sarebbe stato concesso a tutti, ma probabilmente lui stesso sapeva fin dall'inizio che così non sarebbe stato. Noi ovviamente non accettiamo di venire zittiti, non ci fermano di certo le spinte della polizia, ma anzi continueremo a parlare ancora più forte, perché noi non accettiamo questi comportamenti da parte di Nardella, non accettiamo il razzismo di Salvini e non accettiamo appunto di essere presi in giro da questa classe politica. Nella giornata del 25 aprile abbiamo però avuto l'ennesima dimostrazione di come in questa città chiunque non la pensi come il sindaco Nardella debba appunto stare in silenzio e debba essere fatto tacere con ogni mezzo necessario. Dunque il corteo è stato dapprima vietato, e poi gli è stato concesso un percorso alternativo che terminava in Piazza Santa Croce, quindi ben lontano da quella piazza della Signoria che di fatto il sindaco aveva privatizzato, appunto impedendo a chi voleva esprimere idee diverse dalle sue di prendere parola. Il corteo però non si è lasciato intimidire e ha sfilato per le vie di Firenze, arrivando fino in via del Proconsolo, dove ha appunto tentato di arrivare sotto Palazzo Vecchio per poter dire la propria. Davanti si è trovato uno schieramento di polizia che con ben due cariche di alleggerimento, ha tentato di chiudere la bocca a chi voleva esprimere opinioni evidentemente scomode. Paradossale, comunque, che questo sia avvenuto il giorno del 25 aprile, la giornata in cui appunto l'Italia celebra la liberazione dal nazifascismo e la sua ritrovata libertà dopo 20 anni di regime fascista. In questa giornata, però, qualcuno è stato negato il diritto di parola e abbiamo avuto di nuovo l'ennesima prova dell'ipocrisia di Dario Nardella, che soltanto il giorno prima aveva assicurato a un giovane, a un ragazzo che appunto gli aveva posto questa stessa domanda, contestandolo, mentre inaugurava il murales dedicato al partigiano Sarti. Nardella aveva appunto assicurato che il corteo sarebbe potuto partire ed sarebbe potuto arrivare ed esprimere le sue idee. Così evidentemente non è stato. Ancora più paradossale che a prendersi quelle manganellate lo scorso 25 aprile siano stati quelli e quelle che ogni giorno lottano contro il razzismo, contro il sessismo, contro il fascismo, lottano contro lo schiavismo che si verifica all'interno delle fabbriche e che di fatto hanno preso il testimone della resistenza e che sono diventati i nuovi partigiani e le nuove partigiane di oggi.